nessuno può spendere più di quanto guadagna. Questa è una lezione elementare che è stata sempre valida in tutti i sistemi politici. Anche l'Europa attuale la deve rispettare. E voglio finire due favole che vengono sempre raccontate in Italia. La prima favola è che la Germania vuole colonizzare l'Europa, o sciocchezze simili. Noi non vogliamo colonizzare nessuno. Una maggioranza dei tedeschi 13 anni fa è stata contraria all'introduzione dell'euro e una maggioranza anche oggi sarebbe felice senza i problemi che abbiamo in Europa. Non vogliamo colonizzare nessuno, vogliamo un'Europa stabile e non un'Europa che affoga nel debito. E poi un'altra leggenda che viene sempre raccontata è che la Germania sia il paese più ricco d'Europa. Questo in confronto dell'Italia non vale per niente. Il patrimonio privato in Italia è più alto di quello in Germania. L'italiano medio ha 60.000 euro sul conto bancario, il tedesco medio ha 50.000 euro sul conto bancario. E in Italia l'80% della popolazione ha la casa propria, in Germania solo il 50%, cioè l'Italia privatamente è più ricco della Germania. E per questo molti tedeschi, ma l'Italia si permette, d'altronde il sistema politico e amministrativo più costoso del mondo e ha una evasione fiscale discreta. E per questa ragione molti tedeschi non hanno la volontà di pagare per questi certo, tedeschi, no?